Ci tengo appunto anche un'altra sottolineatura rispetto a sta cosa è il fatto che l'idea di costruire di avere un assessorato al territorio che si occupi di agricoltura e di urbanistica insieme e connesso il fatto di costituire un laboratorio municipale permanente che faccia continuamente ricerca, che continuamente interloquisca con gli agricoltori, che sviluppi progettualità, che ricerchi anche risorse economiche per sviluppare queste progettualità. Mi sembra che facendo quello che stiamo facendo stasera, nel senso comunque dando la parola agli agricoltori, lavorando insieme e sviluppando i passi successivi, questo può essere molto interessante, facendolo anche con le persone che vivono il territorio, con i cittadini e con anche gruppi informali e formali che esistono in città. Mi viene da pensare ai gruppi di acquisto solidali, a cittadini appassionati sui prodotti, a gruppi informali come la Terra Trema. Questo secondo me è un patrimonio che abbiamo in questo territorio e se lo vediamo, se vediamo questo patrimonio, se vediamo e lo stiamo ascoltando nelle parole degli agricoltori, dei produttori qui presenti, noi cioè, abbiamo una fortuna incredibile, non so come mai, o forse sì, una strana alchimia che comunque qua c'è l'eccellenza agricola italiana, ma non perché veramente c'è l'eccellenza e si vede e ci sono tutte le carte in tavola per sviluppare progettualità innovative, progettualità virtuose che siano poi di riferimento al di fuori del nostro piccolo territorio. Allora mi sembra una bella sfida, almeno io sono contento e voglio provare a giocarla questa sfida qua. Mancano, se non mi sbaglio, Dario Olivero e Marco Pozzi. Dario, hai voglia di venire tu?